Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo oggi dei consumi italiani perché nel corso di un convegno organizzato dalla Confcommercio, a cui ha partecipato anche il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, sono usciti alcuni dati, a mio avviso, molto importanti. Intanto sulla spesa pubblica, perché la Confcommercio stima che vi siano 23 miliardi di spesa pubblica locale, quindi non stiamo parlando della spesa pubblica su base nazionale, in eccesso, quindi spese ingiustificate per quasi 23 miliardi. È uno spreco netto di risorse, dice Confcommercio, che potrebbe essere un buono spunto e base di partenza per ragionare sulla riduzione della pressione fiscale, come promesso appunto nel fine settimana dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Le inefficienze e gli sprechi a livello territoriale sono molto diversi, chiaramente, però complessivamente ammontano a circa 74 miliardi. Gli sprechi, beh, ahimè, si raggiunge una percentuale del 64% nel nostro Mezzogiorno contro il 30% del centro-nord, e nel complesso si spendono 60 miliardi al sud contro i 116 del centro-nord, e abbiamo anche altri dati su quello. Per quello che riguarda poi la pressione fiscale, le aliquote, ci sono stati vari interventi su questo, ne parleremo, ma parleremo anche del progetto riduzione fiscale, perché continua il dibattito sulla fattibilità del piano indicato nel famoso contratto dell'Expo, tagli di imposte per 50 miliardi in 5 anni. La strada sulle coperture, come sempre in questi casi, è tutta inserita. La manovra prevista per la legge di stabilità per il 2016 si sta gonfiando, nel senso non positivo, perché dai 20 miliardi previsti in manovra sta superando già i 25 miliardi. Faccio notare che l'abolizione della TASI, la TASI sulla prima casa, da sola vale quasi 4 miliardi. Poi 3 miliardi e 8, poi bisogna aggiungere gli interventi sull'IMU agricola e gli imbullonati per un totale di quasi 5 miliardi di euro. E poi entro la fine dell'anno ci sono da disinnescare le famose clausole di salvaguardia, ossia 16 miliardi e 800 milioni da reperire, altrimenti in automatico scatterebbe l'aumento dell'IVA e l'eliminazione delle detrazioni e deduzioni fiscali, perché questo prevede l'accordo con Bruxelles. Secondo il governo questi 16,8 miliardi si troveranno con la spending review da 10 miliardi, quindi 10 miliardi solo per quest'anno come riduzione della spesa pubblica, e con lo spazio offerto da Bruxelles in cambio delle riforme, infatti quella leggerissima flessibilità nel patto di stabilità che è stata introdotta, in cambio delle riforme c'è uno spazio di uno 0,1, sostanzialmente calcoliamo che lo 0,1% del PIL vale circa 1 miliardo e 600 milioni di euro. Il governo stima sostanzialmente di avere a disposizione circa mezzo punto percentuale, un po' di meno forse, di flessibilità, e quindi coprire i 6 miliardi, 7 miliardi mancanti, oltre 10 della spending review, per arrivare così a 17 miliardi. Ma ripeto, viste le poste in gioco e gli impegni già presi, l'idea di trovare le coperture non è un'idea così, così facile, né in questo momento sono uscite delle indiscrezioni tali da dire bene, il governo ha trovato la quadratura del cerchio. Parleremo anche dell'ILVA, perché sull'ILVA resta il tema dell'altoforno numero 2, quello che è stato la vita a un operaio, Alessandro Morricella, nel corso di un incidente. L'autorità giudiziaria di Taranto non molla la presa, nonostante i vari interventi, le varie posizioni viste anche sui giornali, e malgrado il decreto varato dal governo lo scorso 3 luglio autorizzi le aziende strategiche, appunto l'Ilva, ad avere comunque la facoltà di utilizzo degli impianti sottoposti a sequestro, il custode giudiziario Barbara Valenzano ha ordinato all'azienda di procedere immediatamente all'attuazione del programma di interventi per spegnere in sicurezza l'alto forno 2. Allora, il problema è questo, e poi chiede di essere informata entro il 24 luglio per procedere alle attività di spegnimento. Ora, l'Ilva sembra decisa a non spegnere l'alto forno 2 in forza del decreto del governo, però attenzione, perché si è detto molte volte: nessuno vuole influire sull'attività della magistratura, però non possiamo far finta di non capire che cosa voglia dire spegnere un altoforno. Non è come sigillare un capannone provvisoriamente. Un altoforno, una volta che è spento, è costosissimo riaccenderlo, ci vuole un tempo lunghissimo per spegnerlo, ma soprattutto con un solo altoforno l'Ilva sostiene che sia pericoloso produrre. Il 4 sarebbe quello che resterebbe solo attivo. L'altro impianto analogo appena rifatto, l'altoforno 1, senza i gas prodotti dall'altoforno 2 non può essere preacceso in vista della ripartenza programmata per il 1 agosto. Quindi, se l'Ilva spegne l'altoforno 2, di fatto non può far ripartire l'altoforno 1 e si blocca l'attività. Questo senza nulla togliere alle indagini e alla responsabilità per l'incidente che costa la vita a un operaio, però attenzione, perché la legge deve anche prendere in considerazione le conseguenze. Non è un sequestro normale spegnere un altoforno, lo dico perché ci sono delle persone che lavorano, delle persone, è la prima azienda della Puglia, l'Ilva, e su questo già è stato difficilissimo mantenere l'attività nel corso di questi anni. Ne parleremo con calma alle 17.45, l'ultima cifra quella per i vostri sms 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Borsa più 0,14% Milano, mentre Parigi perde lo 0,42%, Francoforte lo 0,71%, Londra perde l'1,35% e l'America sta cedendo sul Dow Jones lo 0,45%. Euro su dollaro a quota 1,08%, ancora per quello che riguarda i temi, faccio notare che oggi sullo spread, insomma, l'andamento della differenza tra quanto costa la Germania indebitarsi e quanto costa a noi resta assolutamente favorevole a 119 punti, il rendimento è leggermente salito del BTP a 10 anni all'1,95%. Le altre notizie in breve, oltre ai temi di cui ci occuperemo. Per quello che riguarda gli Stati Uniti arriva una nuova... Ah, non ho dato i valori, scusatemi. Milano più 0,10%, ma tra i titoli Buzzi Unicem più 2,34%, Moncler più 2,25%, Mediobanca più 2%, come la Popolare Emilia Romagna, Prismian più 1,90%, Ubibanca più 1,60%, Tod's più 1,40%, chiudiamo con Enel e Telecom Italia, ambedue guadagnano l'1%. Chi perde oggi in borsa invece è ST Microelectronics, il calo è pesante, c'è un giudizio negativo emesso da una grossa banca d'affari americana alla vigilia della trimestrale di ST Microelectronics. Il mercato e gli operatori si attendono dati deludenti. Poi tutto il comparto dell'elettronica è debole in questi giorni, comunque meno 6,40% ST Microelectronics. Poi Saipem perde il 3,40%, Tenaris il 3,14%, e ancora Eni l'1,12%. Qui su Saipem, se vogliamo anche Tenaris e sicuramente Eni, c'è ancora un ragionamento sui danni, diciamo gli effetti che avrà l'accantonamento del progetto South Stream. Quello che invece invece riguarda le altre notizie in breve. Dicevo, dagli Stati Uniti arriva un buon dato sulle vendite di case esistenti. Sono salite ai massimi le vendite delle case già costruite, ai massimi da 8 anni a questa parte, 5.500.000 con un tasso annualizzato, sono cresciute del 3% nel mese di giugno. Sono tutti segnali di un'economia che sta marciando a gonfie vele negli Stati Uniti. Invece, per quello che riguarda l'industria automobilistica, oggi il dato arriva dall'indagine sulle multinazionali realizzata dal Centro Studi di Ricerche di Mediobanca. Allora, nel mondo il maggior gruppo industriale, non solo automobilistico, ma industriale per attivi tangibili, è la giapponese Toyota con 328 miliardi di euro. Segue la PetroChina con 310 miliardi e la Volkswagen con 291 miliardi. Per quello che riguarda invece la capitalizzazione di borsa, il valore di borsa, resta il numero uno ampiamente la Apple con 535 miliardi di capitalizzazione. Se ci spostiamo in Italia, prima per fatturato è Exor, 122 miliardi dopo Chrysler, e dopo l'operazione Chrysler, seguita da Eni, 109 miliardi, ed Enel con 74 miliardi. Lontanissimo il quarto gruppo, Telecom Italia, con 21 miliardi di ricavi. Exor chiaramente significa gruppo Fiat Chrysler. E sempre dal rapporto di Mediobanca scopriamo che in realtà nei ricavi, nel fatturato, Amazon ha superato Microsoft con 73 miliardi di euro. Ha superato appunto Microsoft dopo anni di dominio da parte, insomma, di Microsoft, che invece resta quota 71 miliardi nonostante l'acquisizione di Nokia. Terza Google con 54 miliardi. Ma il rapporto del Centro Studi Mediobanca evidenzia anche la corsa dei gruppi cinesi. Pensate che l'attivo tangibile di Alibaba, che è il motore di ricerca per affari a cui abbiamo parlato molte volte, acquisti online, motore cinese, dunque Alibaba è cresciuto del 484%, non è un motore di ricerca, scusatemi, è un sito di e-commerce per essere più precisi, 484%, JD.com del 438% e Baidu del 293%. Veniamo all'Europa, la Banca Centrale Europea ha aumentato la liquidità d'emergenza fornita alla Grecia, la famosa ELA, quella che diede subito dopo l'accordo, di altre 900 milioni, come fatto appunto la scorsa settimana. In questo modo il totale degli aiuti che la Banca Centrale Europea ha fornito alla Grecia, la Banca Centrale Greca e alle sue banche, di 90,8 miliardi di euro. Adesso, prima di partire con il nostro tema, un tema assolutamente italiano, visto che parliamo di consumi, di sprechi, nel giorno in cui l'Istat ci ha fatto sapere che cresce il fatturato dell'industria mese su mese, ma cala rispetto a all'anno prima, questo per la componente interna dell'energia, però cresce dell'1,2% rispetto ad aprile. Tra l'altro però l'Istat fa sapere che il fatturato totale, corretto per gli effetti del calendario, cresce comunque del 2,4% anno su anno, con un incremento dello 0,6% sul mercato interno e del 5,8% su quello estero. Aumenta in particolar modo per i beni strumentali del 6%, 6,5% beni di consumo più 2,6%, tra l'altro bene i beni, scusatemi gioco di parole, durevoli più 3,5%, più 2,5% quelli non durevoli. Diminuisce in maniera forte per l'energia dell'8,8% e quanto a settori, beh, vanno molto bene i mezzi di trasporto più 12,5%, macchinari e attrezzature più 7,6%, e poi apparecchi elettromedicali, misurazione, orologi, ottica, prodotti di elettronica, bene anche quelli più 7%. Le variazioni negative più marcate si hanno invece nelle attività estrattive, di nuovo dell'energia, meno 38%, prodotti petroliferi raffinati meno 5,7%, ma questo appunto

praticamente adeguando la spesa e il livello dei servizi di tutte le regioni agli standard della Lombardia, che sono elevati comunque, non si spiegano, da qui ingiustificate, spese per 23 miliardi di euro. 23 miliardi sono una manovra e mezza finanziaria. Se pensiamo che la manovra sulla TASI, sulla prima casa, vale meno di 4 miliardi, 3 miliardi e 8, se immaginiamo anche terreni agricoli e gli imbullonati, siamo a 5 miliardi, voi capite cosa voglia dire parlare di 23 miliardi di spesa locale non giustificata. E vorrei capire come poi si distribuisce, per modo di dire, con chi ha contribuito a questo studio, e quindi il responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Meno tasse, meno spesa, binomio della ripresa. Vi mettete a fare i convegni con rima baciata a questo punto, e va bene, noi siamo contenti. Però al di là della rima baciata, qui c'è da baciare le mani di alcuni amministratori del nostro sud, ma non solo. Come si arriva a questo dato di 23 miliardi? Io l'ho raccontato in maniera sommaria, però bella, sì, voi avete preso... Prego. Sì, no, secondo me l'ha raccontata molto bene. Noi abbiamo preso i livelli di spesa pubblica locale, quindi non soltanto le regioni, ma anche province, comuni e altre autonomie funzionali. Abbiamo calcolato un indice sintetico di servizio pubblico, abbiamo preso 19 indicatori, abbiamo omogeneizzato, abbiamo fatto un po' di confronti e emerge effettivamente che gli sprechi sono cospicui. E questa idea di lavorare sulla spesa pubblica ci è venuta dallo stesso Padoan, perché lui ha sempre detto a tutti, non solo a noi, non dite sempre che bisogna ridurre le tasse, bisogna anche trovare le risorse per ridurre le tasse. E allora noi abbiamo lavorato sulla spesa pubblica. Nel frattempo però devo dire che invece il Presidente del Consiglio alcuni giorni fa ha proposto la sua rivoluzione fiscale, la rivoluzione copernicana, e devo dire che non sono soltanto 45-42 miliardi da trovare nel prossimo triennio sommati, ma prima bisogna trovarne circa 72 per disinnescare le clausole di salvaguardia del 2014 e anche quelle del 2013, cioè quelle sulle spese fiscali. Bisogna trovare, mi pare, 114 miliardi, se facciamo la somma di tutto. Ed ecco che allora... sì, per correttezza, in alcuni anni, perché se no 114 in un anno... Tre anni, sono cumulati, no? Quindi cioè, se ne trovo, che ne so, 40 il primo anno, tutte 40 nel 2016, non devo trovare più niente, cioè devo semplicemente mantenere il taglio, perché 40, 40 e 40 fa 120. Questa certo. È la logica, diciamo, della contabilità pubblica. Si fa anche con queste metodologie. Però vuol dire la proposta del Presidente, interessantissima, anche discutibile su alcuni punti, implica di trovare ulteriori 42 miliardi nei prossimi tre anni, come diceva lei, no? C'è il discorso dell'IMU, di bullonari, di terreni agricoli, ma poi c'è anche l'IRAP, l'IRES, cioè tutte le imposte ci siamo fatti dal 2016 al 2018. Beh, noi siamo contenti del taglio delle tasse, ma saremmo anche più contenti se una volta tanto si dicesse con maggiore precisione dove li vogliamo prendere questi soldi, perché è vero, abbiamo la spending review già da fare così per neutralizzare le clausole di salvaguardia targate 1 gennaio 2016, ora dobbiamo farne ancora di più per trovare le risorse per compensare i tagli fiscali. Quindi sì, secondo me da un lato si può fare anche una sana e seria lotta all'evasione fiscale, che di cui adesso ascolteremo anche cosa ha detto l'Orlandi oggi proprio da voi, perché il fronte non dell'aumento delle tasse, ma di far pagare le tasse a chi dichiara redditi ridicoli, e ripeto, torneremo sul tema. E poi c'è il tema della spending review. Come lei ricordava, Bella, attenzione, perché il governo già quest'anno, per il 2016, deve indicare 10 miliardi di taglio della spesa pubblica. Non è poco. Perché sennò scattano le clausole di salvaguardia. E poi si aggiunge il resto. Sentiamo il suo presidente Sangalli, a margine del convegno, appunto, meno tasse, io voglio meno tasse, meno spesa. No, io voglio leggere il titolo, eccolo qua. Meno tasse, meno spesa, binomio della ripresa. Sangalli sulla possibilità che si trovino che si riesca a tagliare la pressione fiscale di 50 miliardi nei prossimi anni. Speriamo che i conti pubblici e soprattutto un'azione più coraggiosa di revisione della spesa pubblica consentano al governo di trasformare gli impegni che ha assunto in fatti concreti. Attenzione, Sangalli dice va scongiurata in tutti i modi l'attivazione delle clausole di salvaguardia, che a voi interessa molto nel mondo del commercio perché significa anche aumento dell'IVA in automatico. Sangalli. Noi ci auguriamo che i conti pubblici, ma soprattutto un'azione molto coraggiosa di revisione della spesa, consentano al governo di trasformare gli impegni assunti in fatti concreti. La prima cosa però da fare è cancellare le clausole di salvaguardia se non si vuole cancellare la ripresa, e inoltre ogni risorsa recuperata dal minor costo del debito pubblico, dalla lotta all'evasione e alla elusione e dal taglio della spesa pubblica deve essere indirizzato per ridurre le tasse, e forse anche consentendo di anticipare la riduzione delle aliquote IVA. E un'altra cosa noi chiediamo, che l'IMU sugli immobili delle aziende, sugli immobili delle imprese, compresi negozi ed alberghi, sia totalmente deducibile. Allora, Bella, resti con noi, adesso la pubblicità e il meteo, perché poi vorrei capire. Perché dire 23 miliardi in eccesso va bene, però non fa giustizia, visto che avete usato la Regione Lombardia come benchmark, come riferimento, non fa giustizia della distribuzione di queste inefficienze e sprechi a livello territoriale. E poi che cosa vuol dire che complessivamente sono circa 74 miliardi e come si distribuiscono? Ce lo racconta dopo meteo e pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Mariano Bella, come si distribuiscono queste inefficienze? Che poi inefficienze non sono, sono eccessi di spesa pubblica, quindi. Eccessi di spesa vuol dire sprechi, dai, poi tradotto. Sì, sì. Poi voglio dire, è una questione di sensibilità. Se uno non vuole offendere, gli dice eccesso di spesa, se uno è più. Vabbè, un eccesso di peso spreco, è uno grasso, capito? Cioè, dai. Esatto. Allora, sempre lì stiamo. Allora. Noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice. Quanto costerebbe ai prezzi migliori, quelli che a noi sono venuti quelli della Lombardia, produrre i servizi pubblici locali come sono adesso nel nostro paese per 60 milioni di abitanti? Beh, costerebbe 102 miliardi e non 176 effettivamente, come costano nella realtà. Quindi ci sono 74 miliardi che avanzano, che si potrebbero risparmiare. Ma attenzione, questi 74 miliardi si possono risparmiare lasciando tantissimi cittadini, tra cui in parte mi ci metto pure io, con servizi pubblici assolutamente inadeguati. Ora è inutile che faccio la citazione dei 19 indicatori che abbiamo preso, però prendo il conferimento in discarica in termini percentuali in Lombardia il 5,8, in Lazio il 45, in Calabria il 71, se prendo le irregolarità del servizio idrico in Lombardia sono il 3,8% le famiglie che dichiarano irregolarità durante un anno, in Lazio il 14,5, in Calabria il 31, cioè ci sono differenze di 10 volte tanto. Cioè, mi scusi Bella, per capire, lei dice che se tutta l'Italia fosse amministrata come la Lombardia, ho capito bene? amministrata come la Lombardia. Diciamo, se tutti i servizi pubblici locali avessero i prezzi della Lombardia. I prezzi della Lombardia, ok. Che non è detto, non è che in Lombardia i servizi pubblici siano svedesi, no, per cui no. Lei dice, nonostante alcune inefficienze presenti anche in Lombardia, chiedere ai pendolari delle Ferrovie Nord per conferma, per esempio, ma non ce l'ho con le Ferrovie Nord. Ma dicevo, se anche mantenessimo un livello accettabile, anche se non soddisfacente, andremo a risparmiare su base nazionale 74 miliardi, ho capito bene? Sì, però... Pronto? Sì, eccomi. Però se risparmiamo questi 74 miliardi, i servizi pubblici rimangono quelli che sono. Cioè, a servizi pubblici... Bella, cosa sta facendo col telefono? Allora, i servizi pubblici resterebbero attuali, quindi non soddisfacenti, ma almeno ci costerebbero 74 miliardi in meno. Non so se la stiano picchiando dei dipendenti dell'ATAC. Bella, ci sente? Ci possono anche, forse vi potranno anche picchiare, ma noi abbiamo fatto dei conti, No. Dobbiamo riprendere Bella, perché o lo stanno menando veramente, o comunque. Mentre riprendiamo Bella, che è caduto, spero per motivi solo di collegamento, 74 miliardi, di cui 51 potrebbero essere reinvestiti per migliorare la qualità dei servizi, e resterebbero, da qui poi i 23 miliardi di prima, 23 miliardi di vere e proprie inefficienze che tu potessi tagliare tout court, perché è chiaro che un po'... accettare, limitarsi ai servizi attuali. Dicevo della pressione fiscale unitamente alla spending review. Su questa è intervenuta oggi, sempre a maggio di questo convegno, anche il numero uno dell'Agenzia delle Entrate. Tra l'altro poi ha parlato l'Emanuela Orlandi anche a margine di un'audizione in commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Da un lato sulla volontaria disclosure, e non ha previsto proroghe, e poi ha dato anche un primo giudizio sul cosiddetto il modello 730, il 1.400.000 modelli 730 cosiddetti fai da te. Sentiamola sia sulla volontaria disclosure che sul 730 fai da te. Nessuna notizia, per cui noi per ora stiamo lavorando sulla base della normativa attuale, non ho idea se ci sia una richiesta da parte delle categorie, delle associazioni, non ho idea veramente, al momento non ci sono notizie in questo senso. Sta crescendo, chiaramente noi abbiamo la idea, perché insomma questi sono i segnali che ci arrivano, aspettino tutti la conversione del decreto che ancora non è approdato in gazzetta ufficiale, sta crescendo, ma credo che l'accelerazione necessariamente avvenga solo dopo la pubblicazione del decreto. È assolutamente volontario, per cui ognuno sceglie quale modello adottare, quindi se utilizzare il nostro sito, il nostro modello precompilato, rivolgersi a un professionista, rivolgersi a un CAF, fare il 730 tradizionale, quindi è un passaggio opzionale. È una vera e propria rivoluzione, 2 milioni di cittadini da soli, senza intermediari, l'hanno già utilizzato, quindi mi sembra che sia per il primo anno un grande successo. Io lo definirei soprattutto un modo per facilitare l'adempimento, quindi per aiutare i cittadini ad adempiere il proprio compito e dovere istituzionale in maniera assolutamente più semplice. È una fase sperimentale, quindi come sempre occorre del tempo. Il modello consente a chiunque abbia un minimo di capacità informatica, proprio quello, il minimo di andare sul sito, come uno che va su un'app classica dei telefonini, e di vedere il proprio modello già compilato dall'agenzia, vedere se quel modello corrisponde, se ha delle integrazioni o ha delle ulteriori dati da inserire, accettarlo com'è, o se aggiungere, come dire, degli elementi, modificarlo e di nuovo inviarlo. Così il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, mentre è riapparso Mariano Bella. Sa che alcuni ascoltatori hanno detto, le hanno tagliato la spesa telefonica a proposito di spendere. No, ma questa è privata. Quella è privata. La mia è privata, e quindi cortesemente. Allora, resti ancora con noi, perché adesso ho il traffico, però mi interessa e vorrei chiudere su questo con lei, Bella, proprio sul calcolo che avete fatto, perché dire semplicemente se tutti gli enti locali lavorassero con la produttività, rapporto costo-beneficio della Regione Lombardia, avremmo 74 miliardi in meno. È una parte della verità, perché come lei ricordava, questo vuol dire però mantenere il basso, bassissimo livello della qualità dei servizi pubblici in alcune aree del paese a partire dal mezzogiorno. La cosa affascinante, diciamo così, del vostro studio è che si ipotizza anche di investire, reinvestire buona parte di questi soldi per migliorare i servizi, e ciò nonostante avremmo un risparmio pari a una finanziaria e mezza. Ce lo spiega come ultima cosa dopo il traffico. Economia. Allora, il direttore del Centro Studi Confcommercio, ce la rispieghi bene questa. Ecco, complessivamente ecco, le inefficienze, gli sprechi, perché noi abbiamo una rubrica venerdì, la classifica dei cinque sprechi della settimana, sono anche piccoli, però tutti sommati si arriverebbe forse ai 74 miliardi di euro. Però voi dite una cosa un po' diversa, per essere un po' più seri. Non è che uno si limiti a risparmiare 74 miliardi, bella? Perché se mi fai risparmiare 74 miliardi vuol dire che la Calabria rimane con il 2,5% dei bambini tra 0 e 2 anni portati all'asilo, oppure con 4 volte l'interruzione di servizio elettrico rispetto alla Lombardia, eccetera, eccetera. E noi invece diciamo: quanto costerebbe riportare tutti i servizi pubblici per tutti i cittadini ai livelli di qualità e quantità della Lombardia? Costerebbe 51 miliardi, che è la cifra da riallocare, cioè da reinvestire, tratta da questi 74 miliardi risparmiati, per far vivere decentemente tutti gli italiani. Ma è chiaro che 74 meno 51 mi dà 23 miliardi che non hanno alcuna giustificazione. Quindi su questi 23 miliardi, che derivano in larga parte da mezzogiorno, regioni a statuto speciale e regioni piccole sotto il milione di abitanti a statuto ordinario, ecco, su questi 23 miliardi si può innestare un importante processo di spending review e con poi possibilità di restituire ai legittimi proprietari, cioè contribuenti in regola, queste risorse. Allora, questo è importante, perché voi capite che se alcuni ascoltatori scrivono: ma che fine ha fatto Cottarelli, adesso si riscopre la spending review? L'abbiamo detto più di una volta che a nostro avviso il governo ha sbagliato, perché l'interregno, il passaggio e il vuoto pneumatico tra Cottarelli che tornava a Washington e l'arrivo di Gutgeld, beh, è tempo perso. Bisognava prendere il lavoro fatto da Cottarelli con la spending review e iniziare a metterlo in atto subito. Perché poi, giustamente, Gutgeld dice, l'ha detto ai nostri microfoni, è un buon lavoro, una base di partenza. Bene, bisognava andare avanti subito, non avere questa interruzione di... Anche perché non abbiamo tempo. No, appunto, i dati che ci trovano prima sono emblematici, non abbiamo tempo perché scattano le clausole di salvaguardia. Esatto. Però quello che mi fa più arrabbiare di tutto è immaginare che semplicemente toccando le inefficienze e gli sprechi, non toccando la busta paga... Del lavoratore pubblico impiego o toccando il servizio, toccando inefficienze e sprechi a livello locale, tu ottieni 74 miliardi. E guardate che le inefficienze e gli sprechi le ha anche la Regione Lombardia, cioè non stiamo parlando della Svezia, quindi portando inefficienze e sprechi a un livello accettabile, mettiamola così. Adesso non è che la Lombardia sia tutto oro quello che luccica, per cui però portandoli a un livello di sprechi e inefficienze accettabile lombardo risparmieresti 74 miliardi, di questi 51 li reinvestiresti per portare in maniera efficiente i servizi, vedi la raccolta differenziata, vedi gli asili nido di quelle regioni, a un livello lombardo, ti avanzerebbero 23 miliardi, praticamente avresti già fatto buona parte della riduzione fiscale, metà. Con il doppio effetto di aumentare i servizi, i 51 che vai a spendere, e ridurre comunque di 23 miliardi ingiustificati la spesa, e quindi ridurre le tasse. Grazie. Perfetto. Niente, perché questo è un calcolo. Qua non vediamo ancora niente, bella. Per cui sarà perfetto quando lo vedremo. Bellissimo il vostro studio, che ti dimostra quanto il re sia nudo, e finché non si vuole toccare il tema dell'efficienza nella pubblica amministrazione senza ogni volta dire vuoi affamare, no, vogliamo eliminare gli sprechi, è una cosa diversa. Se non si affronta seriamente è inutile continuare a parlare di ridurre la pressione fiscale mantenendo i servizi. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria. Adesso parliamo però di borsa. Ho detto Confindustria, in realtà è Confcommercio. Marino Bella rischia di perdere il posto e Luca Paolazzi si arrabbierà, visto che lui è il direttore del Centro Studi Confindustria, chiaramente Mariano Bella è il direttore del Centro Studi della Confcommercio. La borsa, meno 0,13% Milano, meno 0,47% Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 1,50% Londra. Milano se la cava meglio, decisamente meglio di molte piazze europee. Il Dow Jones perde lo 0,50% in questo momento. Eleonora Micheli, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Partiamo da ST Microelectronics, meno 6,64%, spicca in una giornata abbastanza piatta. Per il resto. Sì, è partita male sin dalle prime battute di questa mattina e poi nel corso della giornata è peggiorata continuamente. Questa notte la società comunicherà i conti del secondo trimestre e l'attesa è che siano deludenti. Come se non bastasse, Citigroup ha emesso una raccomandazione negativa e poi in più ricordiamo che le azioni che potrebbero essere delle società potenziali clienti di ST, da Apple, la IBM, hanno diffuso conti diciamo sotto le attese degli analisti, soprattutto per quanto riguarda le prospettive future, e quindi questo alla fine ha scatenato le vendite anche sulla stessa ST Microelectronics. E questo per spiegare appunto l'attesa sulla trimestrale. Tenaris meno 3,40, Saipem meno 3,34, Edeni meno 1,12%. Qui è il settore petrolifero invece più. Sì, è il settore petrolifero. Ha un po' di speculazione ancora su. Ma quanto ci mettono a calcolare i danni dell'interruzione del progetto South Stream? Perché ogni volta. Prego. Sì, infatti si può dire che ovviamente è andato male tutto il settore petrolifero e questo è il motivo ad esempio per cui anche Londra, tra petroliferi e minerari, ha accusato la performance peggiore, meno 1,5%. Ma al di là di questo, Saipem è andata peggio, meno 3,3%, a puntare l'indice sulla società quest'oggi è stato uno studio di Mediobanca che ha risollevato alcune problematiche, cioè innanzitutto l'azzeramento del contratto South Stream, non è chiaro quali danni effettivi ancora comporterà l'azienda, ma di sicuro ne comporterà. Poi secondo gli analisti di Mediobanca Saipem dovrà fare nuovi accantonamenti e in più, sempre secondo gli esperti, non riuscirà a rispettare l'obiettivo di una posizione finanziaria netta a fine 2015 di 4 miliardi. Ovviamente tutto ciò senza nemmeno considerare il fatto che, data la sua delicata situazione anche finanziaria, a questo punto si allontana un po' la possibilità di un interesse da parte di potenziali investitori. Si era parlato ad esempio anche della Cassa Depositi e Prestiti attraverso il fondo strategico. Questo per quello che riguarda appunto l'intera operazione scenario futuro. Per quello che riguarda le banche, molti ci stanno chiedendo date i titoli bancari. Sì, ho capito, adesso li diamo. Non è che la giornata sul mondo bancario resterà scolpita nella pietra. Popolare Emilia Romagna più 1,50, Mediobanca più 1,60, UbiBanca più 1,40. Epoca, altro, cos'è che mi sfugge? Pop Milano più 0,50, Monte dei Paschi più 0,40%. Sul Monte dei Paschi però, Eleonora, oggi Sole 24 Ore ha rivelato che i soci storici della banca, in primis la Fondazione Monte dei Paschi, non sarebbero disposti a rinnovare il patto di sindacato. Sì, esatto, è un patto di sindacato che è stato siglato un anno e mezzo fa tra la Fondazione MPS, BTG Pactual e Fintech. Però appunto da indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore non sarebbero disposti a rinnovare il patto di sindacato, preferirebbero avere le mani libere. Quindi adesso l'attenzione ovviamente è alta sul titolo, anche perché ricordiamo la Banca Centrale Europea in teoria avrebbe detto che entro luglio MPS dovrebbe presentare anche un progetto di matrimonio, ma come ha detto Viola poi il matrimonio alla fine si fa sempre in due. Allora Leonora, restiamo su questo, però dopo il GR24, perché c'è anche il tema premuda, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, poi parliamo anche di Ilva e piano fiscale del governo. Focus Economia. Sette minuti, Leonora Micheli, stavamo dicendo degli altri titoli in una giornata di borsa non diciamo memorabile, premuda. Sì, premuta invece è volata quasi del 20% per l'esattezza del 18,9%, festeggiando una notizia che è stata diffusa ieri sera, ovvero di un accordo con le banche. Le banche hanno scritto nero su bianco che non richiederanno indietro i finanziamenti e anzi trattano per ristrutturare il debito della società. Poi per l'accordo sulla ristrutturazione del debito c'è tempo per trattare fino a ottobre 2015, però già le cose sembrano mettersi meglio a questo punto e quindi i titoli sono stati premiati con questa volata. Bene, anche i grandi viaggi più 6,20, D'Amico più 4,70, Bialetti Industrie più 4%, male invece, oltre a ST Microelectronics, che è il peggior titolo del mercato, in assoluto Mondo TV meno 5,33, Agronomia meno 3,95, Stefanel meno 3,60%, grazie. Allora Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore. E noi dalla finanza vogliamo l'economia reale, più reale di così non potrebbe essere, mi riferisco all'Ilva e a questo calvario, non solo per gli abitanti di Taranto, ma non solo per i dipendenti dell'Ilva, che è il primo stabilimento siderurgico italiano, fornisce il 50% della produzione energetica della produzione siderurgica del paese, tra l'altro in un paese come l'Italia che è il secondo produttore d'acciaio a livello europeo. Nel polo di Taranto complessivamente lavorano 12.000 addetti, anche se il gruppo è commissariato dal 2013. Sapete qual era l'accusa? L'inadempienza, per cui Riva sono anche sotto processo, non avere adempiuto a quanto richiesto e quindi in termini di sicurezza ambientale, di impatto ambientale. Si è cercato molto faticosamente, ci fu anche un decreto ad hoc dell'allora ministro Passera, di punire chi non aveva fatto e non aveva messo in sicurezza ambientale l'Ilva, ma non chiudere l'Ilva e non mandare sul lastrico 12.000 addetti. Sembrava che questo processo si fosse incanalato verso un percorso virtuoso e invece no, perché adesso, dopo il famoso caso dell'altoforno numero 1, rischia di chiudere anche l'altoforno numero 2, con la conseguenza che se resta solo un altoforno nella Acciaierie Riva, il 4 se non ricordo male, per motivi di sicurezza l'Ilva non potrà produrre. Conferma a Domenico Palmiotti del Sole 24 Ore in collegamento con noi da Taranto. Buonasera Domenico. Buonasera Sebastiano. Buonasera. Cioè, il problema è che se chiude l'altoforno 2 e oggi, perché ne parliamo oggi, perché il custode giudiziario Barbara Valenzano ha comunque ordinato all'azienda di procedere allo spegnimento in sicurezza chiaramente dell'altoforno 2, come previsto dal decreto di sequestro preventivo confermato dal GIP Martino Rosati il 29 giugno. Cosa capitò? È morto, purtroppo, è un grande lutto, ma è morto un operaio, Alessandro Morricella, in un incidente. Quindi siamo di fronte a un caso molto diverso, lo dico col massimo rispetto, ma un conto è l'accusa che veniva fatta a Riva di non aver messo in sicurezza come impatto ambientale, inquinamento, le emissioni, quello che produceva l'Ilva, avendo causato tumore e un danno per la popolazione di Taranto. Qui parliamo di un incidente drammatico, tragico, ma è un incidente. Allora, che cosa capita se tu chiudi anche l'altoforno 2? Magari ricordiamo quanto ci si mette a chiudere un altoforno e che cosa vuol dire riaccenderlo. Non è come mettere i sigilli a un capannone, a un negozio, prego. Certamente sì, il GIP, il mandato del GIP lunedì scorso, il custode giudiziario è andato in fabbrica, ha intimato all'azienda lo spegnimento in sicurezza dell'altoforno 2 e ha detto che entro il 24 luglio l'azienda deve fornire al custode il cronoprogramma delle operazioni di fermata dello stesso impianto. Ovviamente se l'altoforno 2 venisse effettivamente fermato, dovrebbe anche fermarsi l'altoforno 4, perché a quel punto l'Ilva rimarrebbe con un solo altoforno, appunto il 4, per perché l'1 e il 5 sono fermi per lavori di risanamento ambientale, il 3 è inattivo da decenni e un solo impianto darebbe problemi tecnici e di sicurezza alla gestione di tutto lo stabilimento siderurgico. L'alto forno 2 doveva già fermarsi il 6 luglio perché il provvedimento di sequestro è di giugno. Perché non si è fermato il 6 luglio? Perché il 4 luglio è intervenuto un decreto legge del governo che ha stabilito che pur in presenza del sequestro l'attività di impresa deve continuare e quindi l'alto forno ha continuato a marciare. Poi questo è un problema che sta vedendo alternarsi in questi giorni schiarite e riprese di tensione, come è avvenuto appunto lunedì scorso. Adesso c'è da chiedersi, ma l'alto forno 2 effettivamente si fermerà? Poche ore fa a Lecce è finito un confronto fra la Procura Generale di Lecce, che è competente per il distretto giudiziario, e la Procura di Taranto. Adesso è in corso un nuovo incontro fra Procura di Taranto, Ilva e Carabinieri, e l'impressione è che si voglia un po' raffreddare il clima e cercare di trovare una via di uscita, perché c'è un conflitto, c'è un punto che va risolto. In questo frangente vale il decreto del governo che prevede la continuità di impresa pur in presenza del sequestro, o vale invece il provvedimento del magistrato, per il quale appunto vale appunto il sequestro, e lo stesso magistrato ha impugnato il decreto del governo per incostituzionalità alla Consulta. Bisogna dire che dall'incontro di oggi è emerso che nel momento in cui il decreto sarà convertito in legge, e questo avverrà nei prossimi giorni perché le norme sull'ILVA sono state inglobate nel decreto legge fallimenti su cui poi il governo ha posto la fiducia, quindi già il voto della Camera su questo testo ci sarà tra giovedì e venerdì, nel momento in cui il decreto si trasforma in legge la questione di incostituzionalità del GIP viene a decadere, perché il GIP l'ha posta sul decreto e non sulla legge. Quindi dovrebbe rifare tutto da capo, e quindi è già un problema che viene messo da parte. Poi si sta cercando, diciamo, una via di uscita. Oggi gli stessi magistrati facevano riferimento a quanto è scritto nel verbale di lunedì scorso del custode, quando si invitano i commissari a trovare un raccordo con la procura per avere chiarimenti, ma anche per cercare le soluzioni più opportune. L'impressione è che, siccome occorrono 15 giorni per spegnere l'impianto, il cronoprogramma deve essere presentato il 24 luglio, c'è tutto il tempo per avere una legge, diciamo, pienamente in vigore. Pienamente, sì, io con massimo rispetto, però allora non capisco la fretta del custode giudiziario Barbara Valenzano, nel senso che se ha ordinato l'azienda di procedere nell'immediato all'attuazione del programma di interventi per lo spegnimento, poi chiede di essere informata entro il 24 luglio in merito alla realizzazione delle opere per procedere all'attività di spegnimento. Questo nonostante appunto il decreto del governo. Prego, Domenico. Diciamo che c'è un po'... non è molto chiara la situazione fra i vari uffici. Oggi, per esempio, fonti procura si sono affrettate a precisare che il custode è andato lì su mandato del GIP, non su mandato della procura. E comunque si sta cercando nuovamente di far raffreddare la tensione su questo problema, perché nei giorni scorsi abbiamo avuto parecchi colpi di scena, venerdì scorso con i carabinieri andati sull'impianto che hanno denunciato per violazione dei sigilli 19 persone, poi c'è stata la tregua del fine settimana, lunedì nuovamente tensione col sopralluogo della Valenzano, e quindi evidentemente che c'è qualcosa che non quadra. Però c'è anche un tentativo della procura di trovare, come dire, no, la quadra. Oggi, per esempio, alcuni magistrati, uscendo dall'incontro, hanno fatto anche una sottolineatura importante. Hanno detto l'ILVA dei commissari non è l'ILVA dei Riva, perché sta collaborando con l'autorità giudiziaria, e questo è ritenuto un buon segno. Mentre l'ILVA dei Riva, quando fu ordinato lo spegnimento degli impianti nel luglio del 2012, disse di no, fece le barricate, invece i commissari sin dall'inizio hanno sempre avuto questa linea dialogante e conciliante con la magistratura. Produrrà una schiarita, stavolta non più episodica di qualche giorno, di un fine settimana, ma un po' più stabile, ovviamente nel rispetto della legge, perché se nel momento in cui la legge dice che l'attività di impresa deve continuare, la devono rispettare tutti, a partire dai magistrati. Vedremo se i chiarimenti i tentativi, gli scorsi che si stanno avviando in queste ore produrranno, come dicevo, questo chiarimento e questo rasserenamento un po' più stabile, un po' più duraturo. Anche perché tu hai ben chiarito il perché poi se chiudi l'altoforno 2 spegni anche il 4 da solo non regge, e l'altro impianto appena rifatto, l'AFO 1, l'altoforno 1, senza i gas prodotti dal 2 non può essere preacceso in vista della ripartenza programmata per il primo agosto. Grazie a Domenico Palmiotti, veramente lì tu pensi di averla chiusa come vicenda e riappare. Traffico e poi ultimo tema, le dichiarazioni oggi del ministro Padoan, sempre sull'idea del trovare e reperire risorse per la riduzione di tasse. Focus Economia. L'intervento sulle tasse fa parte di un processo di radicale modernizzazione del Paese, avviato con le riforme strutturali. Deve essere un processo al servizio dei cittadini, deve creare ricchezza e lavoro, soprattutto dopo la grave crisi che abbiamo attraversato in Italia e in Europa. Non capisco le affermazioni che dicono invece di abbassare le tasse bisogna aumentare la lotta all'evasione. Bisogna fare tutte e due. Questa è una strategia pluriennale di riduzione generalizzata della pressione fiscale, che evidentemente deve essere implementata con una sequenza, tenendo conto delle condizioni di contorno. L'obiettivo però è sempre lo stesso, quello di migliorare il benessere dei cittadini, migliorare le imprese facilitandone la vita, abbattendone i costi. Se non avessi condiviso prima dell'annuncio del Presidente del Consiglio le misure, io probabilmente sarei qui sicuramente oggi, ma con un altro mestiere. Il Padoan che avete appena ascoltato era appunto al convegno della Confcommercio, ne abbiamo parlato in apertura con il capo del centro studi per quello che riguarda lo studio sugli enti locali e gli sprechi di risorse, e interveniva a fianco dal vice direttore del Sole 24 Ore Fabrizio Forché, citato anche in uno di questi passaggi. Fabrizio, buonasera innanzitutto. Ciao, buonasera a voi. Oh, con te non parleremo di sprechi e taglio degli sprechi negli enti locali, già abbiamo avuto Mariano Bella per buona parte della prima ora. No, vorrei... Una bella relazione, Mariano Bella. Ma bella perché appunto questi 74 miliardi di ingiustificate spese rispetto a quello che spende per i servizi della Lombardia, 50 miliardi li potresti usare per portare anche le altre regioni a livello e te ne resterebbero 23 di taglio tout court. Però andiamo invece purtroppo su cose più prosaiche. Tu che impressione hai avuto avendo appunto il ministro Padoan come uno dei relatori? Perché Padoan l'abbiamo sentito, ha detto se non condividessi il piano di Renzi farei altro, non è un annuncio estemporaneo ma è una parte di una strategia. Noi invece che siamo maliziosi e cattivi abbiamo visto un annuncio estemporaneo per risalire nei sondaggi, ma chi se ne frega. Padoan, ti è sembrato preoccupato? Cioè il governo sta cercando di capire dove beccare queste risorse, perché dai calcoli che avete fatto anche voi qui la prima urgenza sono i 10 miliardi di spending review già messi in contabilità per il 2016 per non far scattare le clausole di salvaguardia. Fabrizio. Secondo me condivide in buona parte il programma di Renzi, non credo, sicuramente insomma è stato preso un po' in contropiede, sicuramente Renzi l'avrà informato all'ultimo momento, sicuramente nel DEF non c'è indicato questo percorso di riduzione fiscale annunciato da Renzi, è evidente, voglio dire, che Renzi ha fatto suo questo progetto dopo una certa situazione politica che lo portava, diciamo, a doversi tirare fuori un po' dall'angolo in cui si era infilato, però credo che Padoan sia sinceramente a favore di un progetto pluriennale di riduzione delle tasse. In questo convegno stamattina per la prima volta, diciamo, ha parlato delle possibili coperture di questo progetto di Renzi e ha sottolineato con molta chiarezza che deve essere coperto attraverso i tagli di spesa, quello che noi diciamo da sempre, che per essere credibile comunque un progetto di riduzione fiscale deve essere accompagnato da un altrettanto credibile progetto di riduzione della spesa. Citavi la ricerca della Confcommercio, insomma è una delle tante ricerche che evidenzia come tagliare la spesa pubblica si può agire sulle lì dove le regioni, per esempio sulla sanità, producono una spesa molto differenziata e quindi si può agire nelle inefficienze di alcune regioni, ci sono sicuramente regioni già efficienti dove si può tagliare molto poco senza ridurre i servizi, ma ci sono regioni dove ci sono margini per poter recuperare risorse. Detto questo, i 10 miliardi di spending review su un anno che già sono impegnati per evitare l'aumento dell'IVA, come dire, già mi sembra un obiettivo molto ampio, per cui immaginare che attraverso i tagli di spesa si producono ulteriori risorse per ulteriori ingenti riduzioni fiscali è certamente difficile. Va detto che nel progetto di Renzi sul primo anno, cioè questo in cui i tagli di spesa per 10 miliardi vanno a evitare l'aumento dell'IVA, il progetto interviene solo per 4 miliardi e mezzo, che è quello dell'eliminazione della tassa sulla prima casa e delle tasse sui imbollinati, sui grandi macchinari industriali e sull'IMU agricola. Quindi si tratta di 4 miliardi e mezzo, non è una cifra mostruosa, è una cifra che probabilmente si può riuscire a coprire, e anche puntando su dei margini di flessibilità con l'Unione Europea sui quali il governo sicuramente ha intenzione di lavorare. Sì, in effetti c'è quella parte di flessibilità ottenuta con l'Unione Europea che ti permette, se fai le riforme, di avere un po' di spazio sul deficit. Ricordo che ogni 0,1 punti di PIL sono circa 1.600 miliardi milioni di euro. Gutgeld, l'uomo che insomma deve trovare questi 10 miliardi per la spending review, molto ottimista, ha detto l'Italia nel 2017 sarà il paese, uno dei paesi più convenienti per le imprese dopo il taglio di IRES e IRAP annunciato da Renzi, e ha commentato sempre questo, diciamo, roadmap, questo piano, questa tabella di marcia per la riduzione delle tasse annunciata dal Premier. Il taglio delle tasse è fatto con un insieme di riduzione di spesa permanenti, che è la parte più importante, più un margine di flessibilità che chiederemo all'Europa, come abbiamo già chiesto l'anno scorso, visto che stiamo facendo tutte le riforme importanti con grande determinazione e rapidità, crediamo che l'Europa ci concederà uno spazio di flessibilità un po' più ampio. La riduzione della tassa sulla prima casa ha l'obiettivo di ridare fiducia alle famiglie. Importante ricordare che noi nel frattempo non solo abbiamo rimesso la tassa sulla prima casa, ma abbiamo cambiato i nomi, abbiamo fatto tale confusione che ha creato ansia, paura, e l'obiettivo di questa mossa è proprio dare questa fiducia e tranquillità alle famiglie. All'interno di una manovra complessiva di quasi 60 miliardi, questo ritengo una strada giusta. Dunque, Fabrizio Forché, il fronte dell'evasione fiscale resta, a mio avviso, un fronte ancora scopertissimo, anche perché nel frattempo l'agenzia è entrata delle grosse problemi di operatività. Banale, secondo te quando Renzi porterà, diciamo, alla conta questo piano di riduzione fiscale? Nel senso che lì, ne parlavamo anche ieri, c'è un elemento fortemente economico, ma c'è anche un elemento politico. Lì sarà difficile che i fittiani e i verdiniani e buona parte anche del centrodestra non gli votino un piano di riduzione della TASI, eliminazione della TASI sulla prima casa e riduzione fiscale. Ma insomma, la tempistica è quella della legge di stabilità, evidentemente lui dovrà nel mese di settembre dare concretezza a questo piano, dovrà trattarlo preventivamente con l'Unione Europea per stabilire quei margini sul deficit di cui abbiamo parlato. In realtà il governo nel DEF pone un programmatico sul rapporto deficit-PIL di 1,8%. Se deve andare a coprire questi altri 4 miliardi e mezzo di riduzione fiscale per il prossimo anno, significa dover portare il deficit-PIL intorno al 2,2%. Non è un margine enorme da doversi prendere. Se, come dire, il governo dà garanzie sulle riforme che vanno avanti, probabilmente è una trattativa che si può portare avanti. Io direi che è una trattativa che auspicabilmente bisognerebbe portare avanti, perché è chiaro ed è evidente a tutti che in questa fase prendere un po' di margine sul rapporto deficit-PIL ci aiuta a fare politiche per lo sviluppo, ci aiuta a fare investimenti, in questo caso ci aiuta a questo piano di riduzione fiscale, che è assolutamente necessario. Poi questa mattina in realtà con Padoan se ne è discusso, può valutare se è giusto partire dalla prima casa o sarà meglio continuare magari ad agire sull'IRAP, sull'IRES già dal primo anno o sull'IRPEF. Insomma, questa scadenza di Renzi da partire con la prima casa e poi dopo fare IRAS e IRAP e soltanto alla fine fare l'ISPEF, e secondo me, da come ha parlato oggi Padoan, lui su questo qualche dubbio ce l'ha, nel senso che anche sulla base di quello che lui ha detto nei mesi passati, negli anni passati, io sono convinto che lui avrebbe preferito da subito agire ancora sulle tasse. IRPEF e IRAP. Ma sì, perché anche se devi andare, soprattutto se devi andare a trattare con l'Unione Europea, è più facile cambiare flessibilità. Sì, ma anche perché ieri, adesso siamo in finale di programma, però ieri ricordavamo come fosse stata la stessa Unione Europea a farci notare che noi eravamo l'unico paese che non prevedeva, quando fu levata la l'ICI, che non prevedeva una tassa sulla casa, mentre alleggerire la pressione fiscale su chi le tasse le paga è un'altra cosa. So già che questo mi attirerà molte critiche, però insomma, quando funziona la TASI e l'IMU, è vero che sono molto aumentate rispetto all'iniziale ICI, ma era una forma di prelievo patrimoniale. Forse era meglio iniziare a tassare meno chi lavora, oltre che chi dà lavoro. Comunque, staremo a vedere intanto sulle tappe di questa proposta, 50 miliardi in 5 anni. Intanto grazie a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.